Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Good evening, ladies and gentlemen. Siete in contatto con il soundcheck di Radio 24, appuntamento numero 196. E oggi sono felicissimo perché il nostro soundcheck, la nostra prova del suono, la dedichiamo completamente alla figura ormai mitologica di Stevie Wonder. E quindi soundcheck for Stevie, approfittando della presenza di uno dei miei migliori amici, ma anche un musicista strepitoso che ormai da diversi anni sta imponendo a livello internazionale il suo talento e la sua arte con il suo sax tenore. Ladies and gentlemen, madame e messie, il piacere di ritrovare al soundcheck qui nel Groovemaster Studio la figura di Max Ionata, e non ha il suo sax tenore, mi dispiace. Ciao Max, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera, ciao Gigi. Allora, perché la puntata di oggi la dedichiamo a Stevie Wonder e la intitoliamo Soundcheck for Stevie? Lo vuoi dire tu? Beh, in generale... Puoi immaginare, no? O il motivo della mia tua visita? Tutte e due, no? Un po' tutte e due le cose. Beh, sicuramente perché Stevie è uno degli artisti più poliedrici, ma più significativi di questo nostro secolo, secondo me. E io ho avuto la fortuna di poterlo omaggiare ultimamente con un disco che è il secondo disco in duo col grande Dado Moroni, e si intitola questa volta Two for Stevie. Eh sì, si intitola questa volta Two for Stevie perché i due signori, Max Ionata e Dado Moroni, dopo l'omaggio a Duke Ellington, quindi Two for Duke, hanno pensato bene di celebrare le composizioni di Stevie Wonder con questo nuovo album appena pubblicato per la etichetta indipendente Jando Music, in distribuzione in questi giorni sia il CD fisico, ma anche, mi auguro che ci sia la possibilità di poter acquistare tutto il materiale presente in questa pubblicazione via internet su iTunes e altri sistemi, perché oggi la tecnologia ci aiuta per la diffusione della musica e in qualche modo ci penalizza anche, cioè penalizza la discografia, però aiuta la diffusione della musica. Sicuramente. Allora Max, avete scelto Stevie Wonder, potevate scegliere, che ne so, Cole Porter, George Gershwin, che voglio dire hanno un repertorio forse più adatto ai musicisti di jazz, anche se ormai sono composizioni che hanno suonato tutti, però mi ha sorpreso molto il fatto che due grandi musicisti di jazz abbiano scelto proprio Stevie Wonder per sfogare la loro passione per la musica e per le note. Ma in realtà abbiamo tentato questa cosa e poi abbiamo capito che poteva essere un terreno sicuramente praticabile anche nel nostro modo di suonare. E effettivamente, quando ci siamo visti un giorno con Dado in studio per provare a mettere su un nuovo disco, abbiamo iniziato a suonare alcuni brani di Stevie. Abbiamo capito che armonicamente avevano dentro proprio quella cosa lì, anche di jazz, che serve poi per suonare. Perché a volte magari un disco più vicino alla cultura della pop music è un pochettino diverso da quello che abitualmente siamo abituati a suonare, appunto. Invece nei brani di Stevie c'erano gli stessi accordi che noi normalmente usiamo nel jazz, quindi è in qualche modo... Beh, questo perché il background di Stevie Wonder lo conosciamo bene, viene dal gospel, dalla soul music, grande appassionato di jazz, conoscitore anche lui del repertorio, per esempio di Duke Ellington, che voi avete già celebrato, tant'è vero che gli ha dedicato anche una canzone che è Sir Duke, ma questo sì. Già alla fine degli anni 70. Quindi oggi celebriamo Stevie Wonder per la presenza di Max Ionata e mi auguro più tardi di riuscire a realizzare un collegamento via Skype anche con Dado Moroni, che non è presente nel nostro studio, sì, certo, ma senz'altro ci sta ascoltando. Quindi Dado, tieniti pronto, in qualche modo attiva il tuo telefonino. Ha un telefonino contemporaneo o no, Dado Moroni? Purtroppo no. È old school, Dado. Non è amico della tecnologia. Vedremo come collegarci con lui. Allora, diamo il via alla puntata celebrando Stevie Wonder, Soundcheck for Stevie, ascoltando subito una traccia bellissima tratta da questo Two for Duke, Max Jonata con il suo sax tenore, Dado Moroni. Two for Stevie, I'm sorry. No. Max Jonata al sax tenore, Dado Moroni al pianoforte, e il brano che ho scelto per aprire, spero ti faccia piacere, è una delle composizioni immortali e amate dal repertorio di Stevie. You are the sunshine of my life. Ah, perfetto. Com'è? Buona perfetto. Scelta. Perfetto, ottimo. Two for Stevie, ovvero per Stevie Wonder. Questa è la versione strumentale di You Are the Sunshine of My Life, per Max Jonata al tenore, Dado Moroni al pianoforte, nuovo album per Giando Music in distribuzione in questi giorni, meravigliosa, una versione bellissima, tra l'altro rispettosi della melodia di You Are the Sunshine of My Life, e ci avete messo del vostro. Beh, ti ringrazio e mi fa piacere che ti sia piaciuta. E effettivamente abbiamo cercato di mantenere quello che era la melodia originale di tutti i brani, cosa non molto facile, perché quando c'è un brano con delle parole non è facile trasportarlo su uno strumento monofonico. Però effettivamente quando poi abbiamo tentato questa strada abbiamo visto che funzionava benissimo, per cui sicuramente questo è un altro valore aggiunto delle composizioni di Stevie. Ecco, non a caso Stevie Wonder è uno dei musicisti fra i più celebrati dai colleghi, soltanto che in una versione jazz così sinceramente non l'avevo mai sentito, quindi va bene, sono contento. Spero che questo possa anche aiutare la casa discografica a distribuire il disco a livello internazionale. Speriamo. Perché voi siete bravissimi e oramai avete un percorso accreditato da tempo, tant'è vero che siete stati recentemente in Oriente, avete suonato in Giappone con grande successo. Come vi ha accolto il pubblico giapponese? Beh, come sempre, Gege, tu conosci benissimo questa parte del mondo, e sono persone meravigliose che comunque hanno una sensibilità e un'attenzione per l'arte notevole, e questa cosa a noi fa piacere. Sì, e poi c'è un'assistenza tecnica quando sali sul palcoscenico impressionante. Hai 10 persone soltanto per curare il tuo sax tenore. Sì. Posso immaginare l'accordatura del pianoforte per Dado. Assolutamente, maniacale. Certo. Allora, puntata dedicata a Stevie Wonder, direi di ascoltare subito la voce originale di Stevie Wonder da una delle ultime pubblicazioni, e anche questo è un brano, secondo me, bellissimo. Melodia splendida, il brano si intitola From the Bottom of My Heart, che segna un altro capitolo della carriera di uno dei più importanti musicisti del secolo, di quello scorso e di questo. Assolutamente. Stevie Wonder, From the Bottom of My Heart, al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Yeah. erroneamente tutti pensano che I Can't Help It è una composizione di Michael Jackson, invece c'è sempre lo zampino di Stevie Wonder che scrisse questa canzone per Michael quando lavorava con Quincy Jones. E questa invece è la versione di I Can't Help It cantata da Didi Bridgewater, che ha prodotto il nuovo album di questo giovane trombettista chiamato Theo Crocker, che io ho conosciuto, pensa, a Shanghai anni fa. Eravamo insieme a Shanghai sì, per celebrare il jazz italiano insieme a Paolo Fresu, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Dani Lorea e tutti gli amici, e una sera andammo in questo club a Shanghai, ti voglio ricordare, che si chiama Jay-Z, e c'era una band fantastica con questo trombettista coi dreadlock era Theo Crocker, e c'era la figlia di Didi Bridgewater, China Moses, che infatti andai a salutare, e poi eccolo qui, Theo Crocker, per dire come nascono le collaborazioni. Theo Crocker, prodotto da Didi Bridgewater, li ho visti dal vivo al Festival Jazz di Roma, all'Auditorium Parco della Musica, band veramente forte. E questa era Didi Bridgewater per celebrare in questa puntata del Soundcheck Stevie Wonder. Allora, ti vorrei far sentire, mio caro Max, un'altra versione di Don't You Worry About The Thing. Il brano l'avete suonato voi. Magari poi suoniamo anche la vostra versione con Dado Moroni. Sì, se vuoi. E questo ragazzo forse lo conosce, si chiama Jacob Collier. Certo. O Jacob Collier, ma credo all'inglese, Jacob Collier, conosci? Sì, Collier forse. Sì, certo, lo conosco dai filmati visti su YouTube, è un fenomeno, credo che sia un ragazzino, ha 20 anni. È un genio, un grande arrangiatore, cantante, polistrumentista, cioè non so, è imbarazzante perché... Sì, sul serio, è imbarazzante per noi professionisti, perché impressiona la facilità con la quale realizza i suoi arrangiamenti e la mentalità anche contemporanea nell'affrontare la musica e la promozione. Perché lui registra tutto a casa, ma registra anche audio video, quindi poi si monta i video e li propone su YouTube. Sì. Infatti non so come farà poi quando farà i concerti dal vivo, perché dovrà mettere su una band o si porterà campionatori. Forse, secondo me, troverà una soluzione del genere. Ma ci penserà Quincy Jones. Sai che Quincy Jones lo ha invitato al Festival Jazz di Montreux, dove ha avuto un grande successo, e mi sa che sta anche pensando a una produzione. Glielo auguro, assolutamente. Senz'altro. Allora, Jacob Collier al sound check di Radio 24 con Don't You Worry About The Thing. Soundcheck. Il suono della musica. Prima radiofonica per Radio 24 qui al Soundcheck, Max Ionata, Dado Moroni, 2-4 Stevie, Isn't She Lovely, dal nuovo album prodotto per Giando Music. Complimenti, anche questa versione di Isn't She Lovely ha qualcosa di originale. Grazie Gigi. Sì, cioè di originale, è stata suonata un po' straight piano, con uno stile molto tradizionale, diciamo jazzistico, che magari era il modo meno probabile forse di poterla eseguire, no? Senti, avete rispettato anche le tonalità originali? Sì, in parte sì, in parte no. dipende da... Però abbiamo cercato veramente di attenerci il più possibile alle tonalità anche originali. Alle composizioni di Stevie Wonder. Sì, sì, sì. Celebriamo Stevie Wonder, che tra l'altro è un musicista completo, sappiamo, è stato uno dei primi musicisti a realizzare in studio di registrazione le sue produzioni in solitudine. Suonava tutti gli strumenti, quindi non solo il pianoforte e la sua favolosa armonica a bocca, ma realizzava anche tutta la parte ritmica, suonando il basso elettrico, la batteria, suona tutto, è stato il primo musicista. Poi tra l'altro a vendere anche un sacco di copie con questa metodologia, sistema. E quindi a guadagnare, perché non ha dovuto neanche pagare i musicisti. Poi il secondo è stato Prince. Lo ha imitato. Adesso abbiamo sentito anche Jacob Collier, se la cava niente male, i polistrumentisti. E c'è anche una cosa che volevo raccontarti che riguarda Bob Malak. Conosci? Grande Bob, Bob, certo. Malak, eccellente sassofonista tenore, che mi ha raccontato anni fa che la scuola, la gavetta, l'ha fatta proprio quando ha militato per anni nella band di Stevie Wonder. E mi raccontò che era difficilissimo a volte affrontare il concerto, perché Stevie Wonder, a secondo del potenziale vocale che si ritrovava, era in grado di cambiare le tonalità dei brani, e quindi diceva: ma stasera mi sento abbastanza bene, tiriamo tutto su di un tono e mezzo. E quindi, siccome avevano le partiture scritte, certo, gli arrangiamenti, i musicisti al volo dovevano cambiare tonalità. Bella prova. E te che suoni il tenore, ci puoi dire quanto può essere difficile? Beh, sicuramente è un impegno, no? Fatto al momento. Io mi auguro che tu non abbia quest'idea per il futuro. Con i miei brani? Con i nostri concerti. No, assolutamente. Piuttosto non facciamo il brano. Ok. O il concerto addirittura. No, certamente. Allora, celebriamo Stevie Wonder. Direi di chiudere la prima parte ascoltando la voce originale di Stevie, con un'altra composizione splendida, Living for the City. Che bella. Che bella, eh? Questa è proprio la versione originale. E poi, naturalmente, abbiamo un po' di pubblicità. Arriva l'informazione di Radio 24. Noi nel frattempo cerchiamo di contattare Dado Moroni per averlo nostro ospite telematicamente utilizzando Skype. Ci proviamo. Living for the City, Stevie Wonder al soundcheck. A boy's born in hot Mississippi, surrounded by for a world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. Soundcheck, il suono della musica. Siete di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24, soundcheck for Stevie Wonder, perché stiamo presentando il nuovo album con protagonisti Max Ionate, il suo sax tenore, in alcuni brani anche il soprano, Dado Moroni al pianoforte, Two for Stevie Wonder, e siamo anche riusciti a collegarci con il maestro Dado Moroni, che lo sappiamo tutti, utilizza un telefonino a carbone, quindi non ti sei ancora convertito alla tecnologia del palmare contemporaneo, mio caro Dado, benvenuto al soundcheck. Ciao JJ, ciao Max, ciao a tutti. No, non mi sono ancora convertito, perché ho come esempio mia moglie, che è super tecnologica, e tutte le cose più nuove, pazzesche, che compra non funzionano mai. Senti, cioè, tu sei genovese, non è perché nel DNA c'è sempre, sai, quella cosa da genovese, visto che il palmare costa un po' di più del previsto, no? È proprio un gap? No, ma perché con le mie radici non sono genovesi per niente, quindi è questione che praticamente fanno tutto tranne che fare il telefono. Allora, io ho un telefono del 300, c'è cioè ancora il numero di Dante sopra. Infatti. Senti, allora ti faccio i complimenti. Funziona benissimo, invece non funziona benissimo il nostro collegamento Skype, perché siamo praticamente a fine anno e tutti si stanno facendo gli auguri in anticipo. Però spero tu possa sentire i miei complimenti, perché il disco è bellissimo. Grazie, grazie. Mi sono divertito tanto a farlo con Max, cioè poi appunto farlo con Max è un divertimento assicurato. Per cui poi che c'è di meglio nel suonare con Max Ionata in duo, quindi senza troppi fronzoli, e la musica di un grandissimo che io reputo al pari dei grandissimi, veramente, cioè quando sento Stevie Wonder per me è come se fosse Duke Ellington, ecco, la stessa cosa, noi un vestito diverso, però la stessa cosa, non pensi anche tu? Assolutamente, e noi che siamo onnivori musicalmente, comunque comunque mettiamo sullo stesso piano Mozart, Beethoven, Miles Davis, Stevie Wonder, James Brown e altre persone, no? Sì, in effetti è proprio così, perché è solo una questione di epoche, è una questione di epoche, ma penso che se Mozart fosse vissuto oggi o che Stevie Wonder fosse vissuto all'epoca avrebbero fatto un casino pazzesco insieme. Allora, infatti è proprio così, infatti. Senti, Max, presentami questa versione di Love's in Need of Love Today, che cosa avete fatto? Aspetta, cosa abbiamo fatto? Super Jazz, non ricordo. È quel pezzo dove abbiamo fatto l'abbiamo fatto veloce, tipo... Ecco. Adesso ricordo. Hai capito qual è? Sì, sì, certo. Abbiamo inserito... Si chiama Love is in Need of Love Today. Ok, e abbiamo inserito quindi un arrangiamento... di un brano famosissimo di Coltrane, quindi abbiamo nella parte dell'assolo abbiamo cambiato l'armonia mettendo Moment Notice di Coltrane su. Tanto per complicarvi la vita un secondo, va bene. Allora, Max Ionata e Dado Moroni al soundcheck, 2 for Stevie. Check. Il suono della musica. Kurt Elling celebra Stevie Wonder con questa sua versione di Golden Lady. Soundcheck for Stevie Wonder quest'oggi, approfittando della presenza fisica, lo posso anche toccare e abbracciare, Max Ionata qui a fianco a me, invece non posso abbracciare ma posso sentire la voce di Dado Moroni collegato con noi con un telefonino del 1947, quindi hai un telefonino analogico ancora. No, va veramente a carbone. Io devo prendere i piccoli pezzi di legno e bruciarli in una piccola in un braciere, una piccola sede, e niente, dovrebbe durare abbastanza. Lo posso anche fare in treno, non c'è problema. Basta non fare troppo fumo. Allora, adesso noi ci stiamo preparando per affrontare il Capodanno. Io quest'anno non andrò in giro a fare concerti, perché suonare a Capodanno è una cosa vantaggiosa da un punto di vista economico, ma anche un po' triste, lo posso dire, perché si suona a volte in contesti anche bizzarri, e mi è capitato più volte. Il mio problema, dovendo affrontare adesso il Capodanno in famiglia, è che mi hanno commissionato la compilation musicale, e credo capito? E quindi sto a casa a mettere su playlist per dare un suono al prossimo Capodanno. Tu stai preparando la tua, Dado, o suonerai tutto dal vivo? No, niente, anch'io prima che ho smesso di suonare a Capodanno, da prima che mi sposassi, perché tutte le ragazze, mentre scoccava a Capodanno, io suonavo, le ragazze più carine baciavano gli altri. Allora ho detto, non voglio più suonare a Capodanno, allora, no, ma no, scherzi a parte, no, perché come dici tu, diventa una cosa, poi se ci fosse l'occasione di magari suonare con Stevie Wonder al Carnegie Hall, sarebbe carino. Certo. Vengo anch'io. Vieni anche tu, vieni anche GG, facciamo un bordello pazzesco, però no, preferisco stare a casa, godermi la mia famiglia, il mio bambino piccolo, mia moglie, i miei genitori, cioè... Ma preferisco, certo, una cosa di questo tipo. Comunque ci stiamo preparando, perché almeno mangiare deve essere una buona cosa, ecco. Assolutamente sì, e quello anch'io, sai che lì non si scappa. Sì, tra l'altro Max, sai, è abruzzese, quindi adesso deve tornare a casa, perché in famiglia stanno preparando quanti quintali di arrosticini state per carbonizzare. No, dai, a Capodanno gli arrosticini no, è più una cosa estiva. quest'anno eviterò a Capodanno. Quindi non neanche il cotechino, ma un maiale intero. Bravo, esattamente. Vabbè, con tutto il rispetto per i religiosi che non consumano il maiale. Allora, dopo Kurt Elling con la sua versione di Golden Lady, direi di tornare al suono del tenore del pianoforte di Dado Moroni, e qui ascoltiamo invece la vostra versione di Don't You Worry About a Thing. Quindi lo chiedo a te, Dado, che cosa c'è di nuovo forse in questa vostra interpretazione di Don't You Worry About a Thing? Ma guarda, è un pezzo che mi ha sempre colpito, perché cioè, mi piaceva lo sviluppo armonico già della versione originale che avevo sentito alla radio all'epoca. E allora, giocando un po' così con Max, abbiamo deciso di farla in tre quarti, quindi è un valzer abbastanza veloce, e quindi abbiamo praticamente suonato l'arrangiamento, cioè delle armonie originali di Stevie, però valzer, quindi tre quarti, con un leggero mood, se vogliamo, coltraniano, per riagganciarci poi anche all'altra versione di Love Is Need Love Today, no? Quindi c'è una specie di trade union fra questi due brani. Lo faccio partire? Yes! Soundcheck, il suono della musica. E mi sa che questa è una sorpresa anche per voi, questa versione contemporary di I Wish di Stevie Wonder. Non così contemporary, perché il producer di Brooklyn, Ahmed Sirur, che abbiamo anche intervistato qui al Soundcheck, ha riproposto I Wish in chiave hip hop, con questa campionatura hip hop anni 80, rifacendo naturalmente il tutto. E mi ha anche raccontato Ahmed che ha trovato la traccia originale di I Wish, quindi solo la traccia originale della voce, su YouTube. Hai capito? E così lavorano i producer contemporanei. Allora, Max Ionate e Dado Moroni per il Soundcheck for Stevie, per presentare Two for Stevie, album bellissimo, ve lo devo dire, ragazzi, complimenti. È un piacere ascoltare le melodie di Stevie Wonder in questa versione. Voi lo sapete che vi voglio bene, perché siamo amici da tanti anni e vi stimo come grandissimi musicisti, ma questo album mi ha veramente commosso. Anzi, io lo devo dire, la prima volta che Max mi ha fatto sentire il rough mix dell'album, io mi sono commosso sul serio, cioè mi sono venute le lacrime, Dado. Grazie, no, vuol dire che mi fa molto piacere, e niente, ti ringrazio di questa cosa, veramente. E allora, vuol dire che esistono ancora persone e musicisti con il cuore. Speriamo, se può servire ancora a qualcosa. Grande, GG. Senti, Dado, va bene, adesso sta per iniziare un nuovo anno, che prospettive ci sono? Come affronterai la nuova stagione con i concerti e la tua musica? Dove andrai? Ma guarda, alla fine di gennaio c'è questa tournée con Ira Coleman, che era il bassista di Tony Williams, Herbie Hancock, adesso suona con Sting. Noi lo conosciamo. Con Enzo Zirilli, questo trio che si chiama Enzirado, che è anche un nome finto, però un nome che sembra un po' spagnolo. Come ti senti? Mi sento un po' Enzirado, che vuol dire un misto fra saudage, tranquillità. Saudage e incazzatura. Saudage è un po' di incazzatura che ci vuole sempre. Sì, un po' inzirrato. E suoneremo appunto verso la fine di gennaio, dal 27 in Italia, 27 al 2, con una piccola, diciamo, una piccola interruzione, perché il 31 con Aira e Paolo Freso suoneremo a Marsiac. E poi c'è il solito tran tran fra conservatori, tutte queste cose qua, concerti in giro per il mondo, parecchi seminari, devo andare anche in Olanda. E poi speriamo la promozione di questo disco, che ci porterà, speriamo che ci porti, insomma, un po' in giro per il mondo, a portare la musica di Stevie Wonder e anche i nostri sederoni, insomma, in giro per il pianeta. È bello, avete già fatto per Two for Duke, adesso vi sarete con Two for Stevie. E tra l'altro io e Max abbiamo un concerto, quando suoniamo insieme? Il 9 di gennaio, sì, mi sa. Gennaio, tra una delle date, appunto, anche a Salerno, no? Sì, a Cava dei Tirreni, lì da Gaetano Lambiase al Moro, perché te lo dico, Dado, tu prima o poi dovrai venire a ascoltare il concerto che facciamo con Max, con l'organ trio di Max Ionata. No, ma io ti ho già sentito via YouTube, niente, ma a me piacerebbe anche magari un giorno viaggiare con voi. Ma io l'idea l'avevo proposta, però dobbiamo riuscire a realizzarla, no? Perché fare una sorta di... Suona anche il violoncello. No, a proposito, perché tu suoni bene anche il contrabbasso, e la cosa fa invidia a molti contrabbassisti, perché lo suona veramente bene, e tra l'altro lo suona a orecchio, credo. Decisamente bene, assolutamente, ma lo suona come un bassista, ma come uno dei migliori bassisti. Sì, ma io lo so, adesso non lo posso dire ad alta voce, ma i bassisti lo odiano proprio. Lo so, purtroppo sì. Perché con Dado Moroni non possono sbagliare. allora, diamo una dimostrazione anche di ciò. Dado Moroni e Max Ionata celebrano Stevie Wonder con Have a Talk with God, e qui Dado non suona il pianoforte, ma un bellissimo Rhodes Fender e il contrabbasso. Sì, mm-hmm. Si chiederanno tutti come l'ha fatto. Soundcheck, il suono della musica. Per chiudere in bellezza, Higher Ground di Stevie Wonder live, che potenza dal vivo. Vedere il concerto di Stevie Wonder dal vivo è ancora oggi una grandissima lezione di musica e anche uno spettacolo impressionante. Bene, termina qui il Sound Check for Stevie Wonder e termina qui anche l'incontro con Dado Moroni e Max Ionata. Io vi ringrazio tantissimo, Dado. Allora, grazie per il collegamento, però mi devi fare una promessa. Yes. Ecco, fammela, perché ho comprato il pianoforte per gli amici. Io scrivo sul pianoforte, ma non sono un pianista, e quindi il pianoforte ha bisogno di essere suonato e strapazzato da chi è omologato per farlo. Allora, come resolution per un buon 2015, io ti prometto che verrò a suonare il tuo pianoforte. E intanto ti abbraccio e ci mangiamo qualcosa insieme. Ecco, però cerca di capitare di sabato o di domenica, perché tu lo suoni, ma io registro oppure produco per la radio, e quindi approfitto. Beh, dai, la prossima volta, Dado, magari facciamo un live qui a magari a Radio 24. Sarebbe un regalo per me e per i radioascoltatori. Facciamolo, lo organizziamo. Allora, festeggiamo questo Capodanno e ci leviamo davanti il 2014. E ci organizziamo per la prossima stagione. Assolutamente sì. Grazie a Dado Moroni, a Maxionata si intitola, lo ripeto, Two for Stevie, il nuovo album di questi due colossi del jazz italiano per Giando Music. Noi ci risentiamo domani alle 15.30 la prima parte, alle 19.15 quella più jazz, con nostra ospite, la bravissima vocalist italiana Elisabetta Antonini. Presentiamo il suo nuovo album intitolato The Beat Goes On, dedicato alla Beat Generation, quindi anni 50. Max, auguri, buon anno. Tanto noi ci risentiamo per telefono per gli auguri. Sicuramente, sicuramente, ma auguri comunque a tutti e a te, Gege. Lascio allora gli affezionati del soundcheck con la vostra versione di Ribbon in the Sky. Noi ci risentiamo domani. A tutti voi buona sera e buona musica da Gege Telesforo.